Aura, aura. mi, papa mi bere mi, odi bo mi si balowa, bebe di amule, amule di zale, okere zonde, papa la rolo lu femi, bele mi femi e wali, bele mi wambambu, bebe o femi ni, Bobo.